Effetto Mondo. Vogliamo favorire l'occupazione femminile e offrire la possibilità di... Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. Cosa stiamo ascoltando? Conte, semplicemente adesso, perché c'è la contemporaneità, sta presentando a Gioia Tauro il piano per il sud, ma insomma... Questa cosa che ha detto occupazione femminile già mi piace. Ecco, cominciamo bene, speriamo, incrociamo le dita. In realtà invece il primo paese dove vorrei portarvi è la Germania, perché da una parte c'è veramente... sono talmente tutti, credo, mi sembra, l'umore dei tedeschi, non riescono veramente a raccapezzarsi per questa crisi della CDU, è una cosa talmente inedita che pensate che Spiegel, che è il settimanale insieme a Stern, uno dei due settimanali di news magazine tedeschi, ha varato questa settimana un podcast giornaliero per capire come funziona la politica in Germania, che insomma però... uno dice, e naturalmente i primi funzionava in maniera molto semplice fino a poco tempo fa, c'era anche la Merkel, adesso invece e no. Quindi sono saltate fuori un sacco di foto di Angela Merkel con tutti i possibili successori come cancelliere, ma a parte questo, poi Spiegel in realtà nell'edizione cartacea mette in copertina il viso su sfondo nero del presidente dell'AfD, ne parlano molto anche i giornali, la Süddeutsche Zeitung ha parlato di questa eredità, e resta anonimo il donatore, un'eredità di 7 milioni di euro, un lascito testamentario sempre per l'AfD. E il presidente della Germania Steinmeier ieri era a Dresda. Sì. Dresda è una ferita aperta, credo, per molti tedeschi, perché tra il 13 e il 14 febbraio del 1945, quindi ricorreva al 75esimo anniversario, fu rasa al suolo dagli alleati. Certo. E ormai era alla fine della guerra, in città c'erano soltanto bambini, anziani e donne, 21.000 morti, città rasa al suolo, è un po' il simbolo insomma della guerra che aveva preso un'altra strada, ma è anche il simbolo di un bombardamento tra virgolette inutile che appunto fece molte vittime tra i civili. Steinmeier non ha sì. detto questo, ha semplicemente detto ricordiamoci quelle ferite, e sentiamo le sue parole, a me veramente piace tantissimo Steinmeier, e dice ricordiamoci che da quella tragedia alla seconda guerra mondiale è nata poi l'Europa che ha permesso questo lunghissimo periodo di pace. Sentiamo la sua voce. Dieses Europa ist die Lehre aus Jahrhunderten von Krieg und Verwüstung, aus Jahrhunderten von Hass und Gewalt. Es ist entstanden. Dice l'Europa è, insomma, è quella che ci ha insegnato e che ci ha permesso appunto di restare in pace. In questo auditorium di Dresda il suo discorso era stato introdotto da una musica di Mozart, insomma è stato un momento che mi sembra che Steinmeier continui, e tra l'altro ha anche detto un'altra frase, per questo mi ricollego all'AfD, ha detto dobbiamo stare molto attenti alle minacce che vengono dalla nostra democrazia, cioè alla Germania dall'interno, e il riferimento naturalmente alla AfD e quello che è successo in Turingia. A proposito di AfD, volevo chiederti infatti cosa sappiamo, che faccia ha, visto che hai davanti la sua foto sulla prima pagina dello Spiegel, questo leader della AfD, partito di estrema destra tedesco, di cui io personalmente so pochissimo. È molto interessante perché nell'analisi di Spiegel si spiega che l'AfD, che lo ricordiamo alle ultime elezioni, è entrato per la prima volta nella storia della Germania, è entrato in Parlamento al Bundestag, un partito di così estrema destra, all'interno anche degli aperti dei negazionisti dell'Olocausto, ma l'analisi di Spiegel spiega anche che in AfD sono confluiti anche molti voti di persone che hanno votato per tanti anni CDU, ma hanno visto molto di cattivo occhio, diciamo così, la svolta verso la sinistra e naturalmente la grosse coalizione con la SPD. E ricorderete che Angela Merkel, nel dire noi non saremo mai, e anche la Kramp-Karrenbauer, non andremo mai, non vorremmo mai avere il sostegno dell'AfD né della Linke, che è l'estrema sinistra. Quindi c'è un po' il tentativo di riposizionare il partito là dove era sempre stato, cioè conservatore, cattolico al centro. Ecco, invece in Gran Bretagna ci sono notizie sui giornali, anche perché Johnson sta fronteggiando un rimpasto di governo, giusto? Ma guarda, lo chiamano un bloodbath, cioè un bagno di sangue, il Daily Mail, perché Said, che era il cancelliere dello scacchiere, che sappiamo è l'equivalente del ministro delle finanze, tra l'altro, guarda, ascoltando gli audio, veramente il mondo è paese. Fino a tre giorni fa Said Javid diceva no, tutto bene con Boris Johnson, queste voci che non andiamo d'accordo, assolutamente no. Problemi con Cummings, che è lo spin doctor, sì. di... No, ma assolutamente no. Bene. Invece? silurato in pochi minuti e rimpiazzato dal suo vice, con il quale si era fatto fotografare 2 settimane fa la prima di Star Wars, dicendo, il vice diceva: è lui il mio Jedi. Ecco, questo quindi è coltelli. È vero che i giornali attribuiscono anche alla fidanzata di Boris Johnson un ruolo in qualche modo di kingmaker? C'è anche questo retroscena, tant'è che il Daily Mail, che è un po' quello un po' più gossiparo di questi giornali, non è proprio un tabloid ma quasi, tra l'altro, bagno di sangue 1, licenziati 15 dipendenti di Meghan e Harry in Inghilterra, bagno di sangue 2, la furia di Johnson con questo reshuffle del governo. E poi si accenna anche a questo retroscena, sicuramente. Tra l'altro loro hanno un rapporto molto vivace, no? Perché prima delle elezioni era stata addirittura chiamata la polizia dai vicini, perché stavano litigando e lanciandosi degli oggetti, quindi una donna focosa. Non male. Allora, in Francia? In Francia invece, da una parte c'è la buona notizia del calo della disoccupazione. L'obiettivo del governo è di portarla al 7, siamo ancora un pochino sopra l'8, e Le Figaro in particolare ricostruisce che le misure varate nel 2005, quindi si dimostra che le politiche per il lavoro devono avere un respiro ampio, cominciano a dare i loro frutti. E poi naturalmente Macron, che è andato sul Monte Bianco per addirittura non lavarsi la coscienza di farla diventare verde, ma farla diventare bianca, tanto che Plantu sur le Monde pubblica una vignetta dove c'è Macron che si arrampica e dice: ho finalmente un po' di aria pura, e sullo sfondo ci sono tutti i problemi che ci sono a Parigi. Tra l'altro hai appena citato anche l'altro problema di oggi, proprio le dimissioni della sua candidata. Del suo candidato, sì. Quindi insomma vedremo, però è la svolta verde di Macron, insomma adesso ha fatto questo gesto eclatante di andare appunto in un posto dove probabilmente l'aria è pura, cioè alle pendici del Monte Bianco, e per dare un'immagine forte di coerenza in questa svolta verde. Chissà se arriverà questa immagine. Giornali spagnoli, è davanti a te El Mundo. Sì, El Mundo parla, vabbè, naturalmente ancora di tutte le polemiche che ci sono con la questione della Catalogna, mentre El País torna sulla cancellazione del Mobile Congress, che noi abbiamo dato un po' in anteprima. Ma è stato cancellato? cancellato. Soltanto che, siccome molte aziende non vogliono pagare penali per questo ritiro, citando l'OMS che dice è una causa di forza maggiore, gli organizzatori dicono: no, siete voi che vi siete fatti prendere dalla psicosi, noi non abbiamo mai parlato di... Ma neanche l'OMS, che abbia mai detto chiaramente di non viaggiare. Adesso scattano gli effetti legali, invece penali. Effetti umani, sui giornali australiani si parla di tutti questi studenti, tutti questi Erasmus, chiamiamoli, che non ci potranno più essere, almeno per un periodo, mentre sul Wall Street Journal si parla di tutte le famiglie americane che avevano in corso delle adozioni internazionali con la Cina, tutto bloccato, quindi tragedie personali. Però c'era anche una buona notizia. Sì, assolutamente. Però è piovuto in Australia, quindi gli incendi si sono spenti. Questa è da approfondire. Grazie Giulia, grazie davvero per questo racconto di oggi. Era l'ultimo della settimana, anche per quanto riguarda Effetto Giorno, con Jacopo De Franchi in redazione, Valeria Bernardi in regia. Ci risentiamo lunedì prossimo. Ciao da Alessio Maurizi, buona giornata.